Il coordinamento Lesbiche Romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, ciao a tutte e benvenute alla nostra 122esima trasmissione. Oggi qui in radio siamo c'è con me Pina ed io, che sono Caterina, e vi faremo compagnia. Oggi è un piacere per me essere qui perché questa trasmissione segna il mio rientro dopo un periodo di malattia anche abbastanza lungo, nel quale in alcuni momenti ho pensato sinceramente di essermi presa la SARS. Ma quando in ospedale ho chiesto se avevo la polmonite atipica, mi hanno risposto guardandomi che ero già sufficientemente atipica io, per cui potevo stare tranquilla, e quindi mi hanno rimandato a casa, e quindi eccomi qui. Dunque, la cosa simpatica in tutta questa situazione è che mi sono trovata a mettere in atto quelle scelte oggi possibili di cui avevo parlato proprio in una trasmissione qui alla radio, riguardanti alcuni diritti di cui possiamo usufruire anche senza il matrimonio. Sto parlando della possibilità di farsi assistere in ospedale da una persona che ufficialmente non risulta essere parente. Sto parlando della possibilità di dare informazioni sulla mia salute soltanto a chi scelgo io, e via dicendo. Certo, rimane alto il rischio di non poter fare tutto questo se si arriva in ospedale in situazioni di incoscienza. Però ritengo che a tutto si possa porre rimedio facendo, per esempio, un atto a priori che preveda questa possibilità. Dunque, questi temi saranno sicuramente argomenti di discussione all'interno del nostro gruppo e cercheremo di approfondirli coinvolgendo magari anche qualche avvocata. Promettiamo che vi terremo informate sugli sviluppi del nostro lavoro, e ricordo ancora che noi ci incontriamo il mercoledì sera al Centro Femminista Separatista di via San Francesco di Sales 1B, quindi se qualcuno di voi è interessata all'argomento può anche partecipare e portare le proprie domande, le proprie aspettative o le proprie conoscenze. Ma veniamo alla trasmissione di oggi. In questa puntata ascolterete una intervista che abbiamo fatto io e Lucilla ad Immaginaria di quest'anno ad una donna veramente significativa e particolare, almeno per noi del coordinamento Lesbiche Romane, perché Leni, questo è il suo nome, gestisce in Austria una trasmissione lesbica, pensate un po'. La trasmissione si intitola Dyke Time. Di seguito ci sarà la nostra consueta rubrica degli appuntamenti e, se rimarrà il tempo, alcune nostre riflessioni su alcuni articoli di giornale usciti ultimamente sulla stampa. Non voglio rubarvi altro tempo, quindi metto subito un brano musicale, e si tratta del brano Cheek to Cheek, cantata da Jane Monnet. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hang around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain, aim to reach the highest peak, but it wouldn't prove me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but it wouldn't prove me half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're out together, dancing cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek. Siamo immaginaria, è il contatto con una donna di Linz, di Graz, excuse me, è di Graz per una radio, lei fa un'attività radio lì, in Austria. E qual è l'attività radio che fa? Se è una radio indipendente, se ha uno spazio come lesbica all'interno? Sie möchten gern wissen, was du machst beispielsweise, ob es ein unabhängiges Radio ist, ob du eine Leiche innerhalb einer Präsentation bist oder was du machst mit der Radio. Ja. Also, die Radiostation ist Radio Helsinki in Graz, das ist ein freies Radio. La stazione radio si chiama Radio Helsinki, è una radio libera a Graz. Die Sendung, die ich mache, heißt Dyketime, Radiomagazin für Lesben und ist 14-tägig. La trasmissione che lei fa si chiama Dyketime, magazzino per lesbiche, lo fa ogni due settimane. Und abwechselnd damit, also alle 14 Tage und dazwischen an dem ist dann Frauenforum, wo ich feministische Sendungen von verschiedenen freien Radios spiele. In mezzo a queste due settimane fa un'altra trasmissione dove parla di temi femministi e di altri gruppi di donne. Quanto tempo va avanti questa trasmissione? Quando avete cominciato? 2 anni. E che difficoltà incontrate? Welche Probleme hast du getroffen? Habt ihr getroffen? Irgendwelche Problematiken, Schwierigkeiten? Also ob es Probleme gibt beim Radio machen? Habe ich so keine. Also es ist mehr so, es in dem Radio, in dem ich bin, sind sehr wenige Frauen. Überhaupt. Nella radio in cui lei lavora ci sono pochissime donne in genere. Also das ist so von der Stimmung nicht so angenehm. Andererseits sind auch mehr von den Frauen Comunque ci sono poche donne e questo non crea un clima molto favorevole, diciamo, come ambiente della radio. Ma invece per reperire materiale, per fare le trasmissioni, come trovate materiale e su che cosa fate le trasmissioni? Su quali argomenti? Ist es für euch einfach, Material zu finden, um den Inhalt dieser Transmissionen zu gestalten? Und über was sprecht ihr denn? Ja. Also ich mache diese Sendung allein. Lei fa da sola la trasmissione. Oh. Also dadurch, ja. Und ich denke mir alle Themen selbst aus. Lei si inventa le tematiche da sola. Okay. Aber also zum einen Teil, ich berichte über Veranstaltungen, die ich besuche, zum Beispiel über das Imaginaria Festival, über das nächsten Frühlingsfestival in Deutschland, wo ich halt das besuche und ja, Veranstaltungshinweise. Lei racconta gli avvenimenti in cui è andata, per esempio Immaginaria, poi al Festival delle Lesbiche della Germania, racconta quello dei festival in cui lei va in giro e poi dà degli avvenimenti, appuntamenti, racconta degli appuntamenti della città e avvenimenti vari che succedono. Und hier gibt es ja auch dann die Möglichkeit, Interviews zu machen, also was dann auch Material ist für spezielle Themen, die ich einmal bespreche. Poi lei fa delle interviste su delle tematiche particolari che lei decide. Also das ist ein Teil. Dann ein anderer, einen relativ großen Raum nimmt nun also Buchbesprechungen, Rezension von Lesbenliteratur, von neu erschienenen Lesbenbüchern, die ich dann doch differenziert bespreche. Uno spazio molto ampio riguarda la recensione di libri di lesbiche che lei recensisce e parla di questi libri lesbici nuovi che escono. Questo è un po' anche quello che facciamo noi nello spazio radio nostro, cioè facciamo recensioni, recensioni di libri, di film, commentiamo fatti politici che avvengono nel mondo e anche le questioni di politica lesbica. Sie machen auch Rezensionen, Filmbesprechungen, was in der politischen Szene der Lesben passiert und auch die bringen das in den Radio. Das ist aber nur ein, aber was ich auch, das ist ein Teil von den Themen, was ich, aber es ist mir auch wichtig, jetzt so Themen vom lesbischen Selbstverständnis zu thematisieren. Also zum Beispiel, habe Interviews gemacht, was ist das Besondere daran, lesbisch zu sein für dich oder als Thema Coming Out oder dick sein, also... Questa era una parte delle tematiche che lei affronta, un'altra parte delle tematiche sono più sulla coscienza di essere lesbica, per cui fa delle interviste a delle lesbiche, per esempio il loro coming out, cosa significa per loro essere lesbiche o essere grasse, o comunque tematiche più legate alla coscienza lesbica. Und ein wichtiger Bestandteil der Sendung ist auch, dass ich Musik von Lesben spiele, also nur ausschließlich von Lesben mit politischen oder auch lesbenspezifischen Inhalt. Also das ist mein persönliches Hobby, dass ich Musik von Lesben sammle. Und ich wähle die Musik auch sehr genau aus. Un'altra caratteristica particolare della sua trasmissione è che mette solo musica di lesbiche. Lei sceglie, è un suo hobby personale di raccogliere tutta la musica delle lesbiche, sia politica che meno, e la trasmette durante la trasmissione. E come come potremmo fare? Per esempio, noi siamo molto interessate alla valorizzazione di tutte le attività che fanno le lesbiche. Per esempio, non siamo in grado noi di reperire molta musica lesbica. Noi per esempio mandiamo esclusivamente musica di donne e abbiamo uno spezzone all'interno del quale mettiamo musica lesbica indipendente. Qualora noi ci volessimo mettere in contatto con lei perché lei possa farci conoscere questa musica, come potremmo fare una sorta di collaborazione, per esempio? Möchten gerne mit dir zusammenarbeiten und deine Arbeit valorisieren. Denn für sie ist es sehr schwierig, Lesben independente Musik zu finden. Sie geben nur Frauenmusik, aber nicht immer können sie Lesbenmusik finden. Deshalb möchten sie gerne mit dir was zusammen machen und um einige Titel zu haben und Musik von Lesben zu haben. Ja, gerne, kann ich gerne machen, ja. Also vom deutschsprachigen Raum ist auch der englischsprachige Raum sehr, sehr nah. Also das meiste, das ich habe, ist aus den USA oder aus dem Anglosprachraum. Also da gibt es eine sehr große Kultur auch. L'ambito tedesco è molto vicino all'ambito inglese, per cui lei ha moltissima musica indipendente americana, inglese, di lesbiche, per cui ha molti titoli e può collaborare con voi. Magari. Noi vorremmo infatti collaborare, per noi è molto importante trovare agganci, non soltanto in Italia, per la radio, ma anche fuori, e sarebbe splendido poter collaborare insieme. Wir möchten sehr gerne neue Kontakte aufnehmen, nicht nur in Italien, sondern hauptsächlich auch in Deutschland. Und es wäre wunderschön, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja. Habt ihr erfahren, in Wien war jetzt ein Treffen von IKX, Frauen in freien Radios? Das war vorige Woche. Se avete saputo che settimana scorsa c'è stato un incontro di donne delle radio libere, IKX, si chiama a Vienna? No. Nein, international mit die zwei Sprachen, es waren zwei Sprachen, Deutsch und Spanisch, und es waren auch es waren aus dem deutschen Sprachraum, Deutschland, Österreich, Schweiz waren hier, Spanien, Chile, Peru, Guatemala, contro internazionali di tutte le donne che lavorano nelle radio libere, le due lingue erano spagnolo e inglese e c'era un po' tutto il mondo. Italien war nicht dabei. Ich habe einmal eine E-Mail irgendwo hingeschickt und ich weiß, es kam eine Antwort aus Italien, mal nur als Mail, eine Frage. Aber ich weiß nicht, è arrivata solo un'unica domanda dall'Italia, ma lei non sa da quale gruppo, però gli dispiace insomma che non c'era nessuno. Ma per esempio la circolazione di queste informazioni forse è c'è un vizio di comunicazione, no? Perché probabilmente queste iniziative si fanno, ma non siamo andate non perché non fossimo interessate, no? Ma perché non eravamo state informate. Quindi magari se possiamo creare una rete anche legata alle informazioni, noi saremmo molto contente, no? Sie sind nicht gekommen, weil sie nicht wollten, sondern weil sie keine Informationen hatten. Und wie könnte man besser in Kommunikation sein und ein Netz auch mit ihnen aufbauen? Ja, also dieses Netz ist gerade dabei, sich besser aufzubauen, eine eigene Website zu machen. Questa rete si sta organizzando di donne che lavorano nelle radio libere e stanno facendo un sito web. Ah, perfetto. E come si chiama la trasmissione? La trasmissione che tu fai ogni 15 giorni? Dyke Time, sì, è vero, scusa. Sì. Dyke Time. Das ist ein, da habe ich einen Jingle von einem Lied genommen aus einer von einer Lesbenband aus Kentucky. Das ist das Lied heißt Dyke Time und habe ich eben den Refrain genommen. Wenn das passt, halt sehr gut. Ha preso un pezzo di una canzone di una lesbica del Kentucky che si chiama Dyke Time e lei lo trasmette, questa è la sua sigla. Ok, va bene. E per noi invece poi ti spiegheremo qual è il nome che abbiamo scelto, che è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. E viene dalla frase detta in un film che parlava di una donna lesbica. Also Also der Titel von ihr, von der Sendung, die sie machen, ist dieser Titel ziemlich kompliziert. Und das kommt von einem Film, italienischen Film, wo eine Lesbe dabei ist. No, il film si chiama La Sassiera di Sister George ed è inglese. Ah, il film è The Murder of Sister George. The Killing of Sister George. The Killing of Sister George. Ok. Ok? Bene, io penso che... Grazie. Ti ringraziamo e adesso stabiliamo i nostri contatti, ok? Ich möchte aber noch etwas sagen, jetzt zu diesen Kontakten, ja? Yes. Also ich für mich finde es wichtig, auch noch halt mit Lesbenradios Kontakt zu haben, weil ich eben eine Sendung für Lesben mache und halt von dem her ist so mir das feministische Netz so nicht genug. Es gibt aber auch noch mehr Lesbenradio, da ist es in Europa halt schwierig mit der Sprache. Es gibt in Ungarn eine Lesbe, die Radio macht, also mit einem Schwulen. In Slowenien gibt es ein Lesbenradio. Ich habe auch den Kontakt noch nicht gemacht. Lei, anche lei piacerebbe molto ampliare il contatto con le lesbiche che fanno radio, perché non gli basta i contatti femministi. Dice, in Europa ci sono altre lesbiche che fanno radio, ma il problema è la lingua. Lei sa che c'è in Ungheria, in Slovenia, delle lesbiche che fanno la radio, però il problema, un po' l'handicap è in questo senso. Sì, ok. Yeah. Yes, we stay in contact. Grazie. Quelle che state ascoltando sono le Sapphire con il brano Don't Do It. Do, and then he told me, if you dig it, don't do it. terrible disgrace. You need to suck in your gut. You need to tuck in your butt. You need to clear the bits of bubble your face. And then he told me if you dig it, don't do it. And if you like it, better leave it alone. And if it's too much fun, that ought to kill you, huh? That you're probably doing something that's wrong. And if it's too good to you now, don't let it fool you, cause you're playing in the danger zone. And I kept waiting and waiting for the man to finish, but the sucker just went appuntamenti. Il fischio. E buonasera a tutte, sono Pina. Vi ricordo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento Lesbiche Romane, all'interno del martedì femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87.900. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista al Buon Pastore ogni mercoledì a partire dalle ore 21 al numero 06 68 64 201. Questo è un telefono fax e segreteria telefonica, oppure potete scriverci a CLR via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Vi ricordiamo anche che la nostra email è contatti@clrbp.it e il nostro sito web è www.clrbp.it. Vi ricordiamo che giovedì 15 maggio alle ore 18.30 avremo al Buon Pastore un appuntamento con Maria Rosa Cutrufelli su Kate Mitlet. Maria Rosa Cutrufelli è una scrittrice di origine siciliana che vive e lavora qui a Roma. È una saggista, ha pubblicato numerosi libri di inchiesta sul lavoro e le condizioni della donna. Ha scritto romanzi e libri di viaggio. È stata anche direttrice della rivista Tutte Storie. Invece su Kate Mitlet cosa dire? Il nome parla da solo. Ma per chi non la conoscesse, è una saggista americana nota per scritti femministi e lesbici. Ha scritto numerosi libri, tra i quali Sita, che è quello più famoso. Dunque, tema centrale di questo seminario tenuto dalla Cutrufelli sarà la Millet e soprattutto la narrativa lesbica da lei prodotta. Vi ricordiamo che l'incontro si terrà al Centro Femminista Separatista alle ore 18.30 in via San Francesco di Sales 1B e che l'ingresso è riservato alle sole donne. A seguire ci sarà Les Bollywood ed il film che si proietterà sarà Chutney Popcorn di Nisha Ganatra. È un film americano del 1999 ed è un narrativo. If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. You, this could be messy, but you don't. E invece quella che state ascoltando è Alain Morissette con il brano Hands Clean. Ma i trillini che fine hanno fatto? Dai, io sono due mesi che non vengo, fatemi vedere che mi state ascoltando e che ci state ascoltando e che siete contente, soprattutto che noi siamo qui. Especially to members of your family. We just keep this to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you watch that weight and you keep your firm body. Adesso, visto che c'è comunque ancora un poco di tempo, vi parlerò di un articolo che ho letto su un giornale qualche tempo fa. Allora, sembra quasi un paradosso che una come me, dichiaratamente contraria alle lotte di rivendicazione dei diritti civili, una che non ha mai dimostrato di volersi schierare fra coloro che, seppur lesbiche, auspicano il raggiungimento della maternità, una come me, dicevo, che si scoccia quando rileva che sembra essersi verificata una pericolosissima fusione tra il binomio diritti civili-maternità con omosessualità. Tra l'altro sembra proprio che non sia più possibile parlare di altro. Sarà pure l'argomento del secolo, però insomma, che palle. Sembra proprio un paradosso, dicevo, quindi, ma voglio parlare anch'io di maternità. E forse è proprio grazie a questo bombardamento che devo la mia associazione di pensiero quasi istantanea dopo aver letto un articolo di giornale il cui titolo citava: ma se le madri sono due, chi eserciterà la funzione paterna? Secondo voi è strano se vi dico che questo titolo mi ha fatto subito pensare alla coppia lesbica con figli? Sarà dipeso da una deformazione professionale? Chissà. Oltre al titolo, la mia attenzione è stata attratta anche dalla scritta in eretto che citava esperti del settore, psicologi e sociologi, che lasciava supporre che quanto affermato nell'articolo fosse il risultato di uno studio effettuato da un'equipe di psicologi, psicoanalisti, psichiatri e sociologi. Ho iniziato quindi a leggere, anche se confesso sono sempre un po' prevenuta rispetto alle considerazioni espresse dagli psicologi legate al mondo omosessuale. Non lo so, forse questa mia perplessità riguardo la capacità degli psicologi di essere significativi e lungimiranti è nata quando, qualche anno fa, Vera Slepoi, che allora era presidente dell'Ordine degli Psicologi, affermò che il cartone animato di Sailor Moon avrebbe facilitato nei maschietti le tendenze omosessuali. Che dire? In quell'occasione noi del coordinamento lesbiche romane arrivammo alla conclusione che forse la nostra tendenza ad essere un po' butch dipendeva dal fatto che da bambine avevamo visto in televisione Bracco Baldo Show. Ma torniamo al nostro articolo. A differenza di quanto si potesse supporre, non si parlava affatto di coppie lesbiche con figli, ma semplicemente della possibilità che oggi gli uomini possano, assumendo caratteristiche comunemente classificate come femminili, possano, dicevo, in qualche modo creare confusione nella prole. Ma perché si afferma tutto questo? Fra qualche istante vi farò sentire cosa dice l'articolo. Allora, parole testuali, l'articolo è firmato Santa Di Salvo. Dice: non si contano più le narrazioni, anche pubbliche, di padri materni ed amorevoli che di notte si svegliano per accudire il neonato e di giorno se lo spupazzano mentre la madre è al lavoro. È un mammo per forza o per convinzione? Psicanalisti e sociologi sembrano più inclini a rispondere che sì, stiamo andando verso una società senza padre. Una cospicua parte di questa riflessione continua infatti a rilevare l'altra faccia della medaglia di questa progressiva femminilizzazione del maschio. Se uomini e donne sembrano disponibili soprattutto ad esercitare funzioni materne, essi si chiedono, chi mai vorrà accollarsi responsabilità e prerogative tipiche del padre? Chi affronterà i conflitti? Chi insegnerà le regole del bene e del male? Chi romperà il fronte madre-figlio aiutando quest'ultimo ad affrontare il difficile impatto con la realtà? Non basta amare un figlio con tenerezza per essere un buon padre se poi lo si lascia in balia di se stesso e senza regole da rispettare. Di certo queste parole si commentano da sole, ma comunque io, ripeto, non ho mai desiderato avere figli, ma chi volesse farne deve tener presente che, come dicono gli esperti, l'hanno detto loro, in quanto donna non si è determinanti in nulla. Il vero protagonista, quello che detta le regole, quello che stabilisce il bene e il male, quello che fa crescere e diventare grandi, quello che ti indica la strada, insomma, quello significativo per l'infanzia, è sempre e solo il maschio. E non fa niente se poi è violento, assente, incauto, distante, superbo. Ma meditate, donne, meditate. Io intanto vi lascio in compagnia di Melissa Etheridge con il brano Your Little Secret. avevo sbagliato canzone, ho rimediato subito. Just like you, you move when she's not looking, baby. One sugar ain't enough for you, but you, you're taking out your lungs, you're burying your bones before your colors blow. You better take it home. Tell it softly to me, baby, that you never meant no one no harm. You want the last mirror, baby. It's swiftly fading like your charm, but you're stepping out. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. A cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe it. Something's got a hold on me, yeah. Come di consueto non ve ne andate, perché noi staremo qui in radio fino alle 10. Mandiamo subito un'altra canzone molto molto bella, questa volta è del duo Castleberry Dupré e il titolo è Hot Corn in the Fire. In the name of religion, bet the Israelites a score. Black Jews that bear affliction for the faith that's so wrong. The propaganda which led the hate, they're forced to leave their own home state. With families waiting on distant shores, they have to fight this damn holy war. You say you ain't gonna rescue, but when we already come, you say you advocate for freedom, when will you bring your people home? The native and the eagle, they're now stranded refugees, trying to return to Zion. So today it only free calls. Sudan holds just a border, not an enemy by the seas. Trump seeking Israel's story. Israel, what will your story be? You say you ain't got to rescue, but when will your relief come? You say you advocate for freedom. E io approfitto di questa bellissima voce che hanno le Castleberry Dupré per ricordarvi il nostro appuntamento di questo giovedì, che sarà un appuntamento più lungo del solito perché partirà alle 18.30 con un incontro insieme a Maria Rosa Cotrofelli che parlerà di Kate Millett. Ricordo che l'incontro si terrà al Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B e che l'ingresso è riservato alle sole donne. A seguire poi ci sarà il consueto nostro appuntamento di Les Bollywood ed il film che si proietterà questa settimana sarà Chutney Popcorn ed è un narrativo, quindi vi aspettiamo numerose per tutte e due gli incontri che sono uno più interessante dell'altro, quindi venite, venite, venite. What you gonna do? What you gonna do? E visto che Leni, che gestisce la trasmissione Dike Time in Austria, ha promesso che comunque in ogni caso ci avrebbe ascoltato, l'unico modo per dedicarle una canzone che possa arrivarle sinceramente al cuore è dedicarle una canzone in tedesco. Quindi dedichiamo noi del coordinamento Lesbiche Romane a Leni, che speriamo ci stia ascoltando, Mitternacht delle Kick La Luna.